Tristena storia d'un pisci spada, storia d'amore. Fioggina, uccidilo, uccidilo, uccidilo, oh! Te picchiara la femminetta, gitto gitto un ciallo cori, e chiancia di doluri, ai, ai, ai, ai, ai. E la barca la strascinava, e lo sangue ni curria, e lo mascolo chiancia, ai, ai, ai, ai, e lo mascolo paria impazzuto, ni dicia, beggia mia, non chianciri, beggia mia, non chianciri, dimmi te che io fari. Rispunia la femminetta con filo e filo e voce, scappa scappa amore mio casi no tacciti nu. No no no no no amore mio, se tu mori voglio morire insieme a te. Se tu muori, amore mio, voglio morire. Con un sarto si trocquissa, cucchio cucchio, cuore a cuore, e a così finiu l'amore di topisci sfortunati. Gioia, gioia, lo vitti, in c'è pure lo mascolo, la fiaggina, uccidilo, uccidilo, oh! Chi ste ne storia d'un pisci spada, storia